Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che riguardano anche e soprattutto l'Italia, nel senso che ci sono dichiarazioni che arrivano da un lato dal vertice Eurogruppo che si è tenuto appunto, come ricordavamo anche ieri, da Atene, e il ministro Padoan per quello che riguarda conti pubblici e procedure europee, dopo che dalla Francia arriva più di una dichiarazione sul fatto che il premier Hollande, anche alla luce della batosta elettorale, avrebbe rimesso mano al dossier, diciamo, maggiore tolleranza sui conti pubblici, sugli sforamenti per quello che riguarda in questo caso la Francia. Di crescita oggi e di necessità di avere non solo austerity ha parlato anche il presidente di Confindustria Squinzi, e è tornato sui temi relativi all'economia anche il premier Renzi, confermando che la conferma che gli 80 euro in busta paga arriveranno a maggio l'ha fatta il ministro Padoan da Atene, però tornando anche su questi temi ne parleremo subito in apertura, perché sono varie dichiarazioni, come capite, Atene, Londra e poi Squinzi. Parleremo come sempre anche della borsa, che oggi è negativa e oggi Milano è la peggiore in Europa, nulla di particolarmente pesante, meno 0,95%, però Parigi più 0,20%, Francoforte più 0,30%, Londra più 0,20%, l'America più 0,16%. Chi va bene oggi solamente Moncler più 2,60%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 1,80%, come Gitec, Generali più 0,90 come ST Microelectronics. Chi perde oggi? Beh, più di un realizzo, chiamiamolo così, visto che hanno cresciuto in queste sedute, sulle banche: Mediobanca meno 3, Pop Milano meno 2,40, Ubibanca meno 2 come Unipolsai e Unicredit, ma anche Buzzi Unicem perde il 2% e Fiat perde il 2,40%. Concludo con Intesa San Paolo meno 1,90, Enel Green Power meno 1,70 come il Banco Popolare, TOZ e A2A, anch'esse appunto in calo dell'1,70%. Ancora parleremo del Salone del Mobile, che partirà l'8 aprile, praticamente quando sta chiudendo Vinitaly parte il Salone del Mobile. Noi, vi ricordo, saremo in diretta come ogni anno per quello che riguarda Vinitaly lunedì e martedì, padiglione 12, padiglione Abruzzo, è la sede degli studi della radio, numerosi programmi che trasmetteranno in diretta da lì, anche perché il settore vitivinico è uno dei pochi settori in questo paese che la crisi non l'ha conosciuta nemmeno nei periodi peggiori, 2009 o 2012-2013. Altrettanto purtroppo non si può dire per il settore del mobile, che ha visto scendere il fatturato del 2,5% l'anno scorso, devo dire soprattutto per colpa, diciamo così, dei consumi interni. Anche in questo caso i consumi sono al palo, siamo vicinissimi alla deflazione tecnica e il calo dei consumi nel settore del mobilio arredo è stato del 7%, controbilanciato solo in parte dall'export più 2,5%. Anche in questo caso e anche nel settore del mobilio arredo, a dimostrazione che le imprese italiane, nonostante un euro troppo forte, a 1,37 a mio avviso, hanno la capacità di aumentare la penetrazione sui mercati, riescono, quando sono proiettate a livello internazionale, a agganciare la ripresa economica in atto, e i dati si vedono. Abbiamo esportato l'anno scorso quasi 11 miliardi di euro di mobilio arredo, è quasi una manovra finanziaria, e appunto più 2,5%. Certo, se poi ti crollano i consumi interni e vale per la stragrande maggioranza dei settori produttivi italiani, non riesci a controbilanciare con l'export, perché l'export ancora rappresenta un terzo e quindi non ti basta fare quella crescita sull'export. Poi parleremo anche delle nuove dichiarazioni del mitico Dijsselbloem. Io già una volta mi scagliai conto di lui, è il presidente dell'Eurogruppo. Ha detto non bisogna rinviare il rispetto dei vincoli di bilancio. Mamma mia, sempre con questo mantra, ripete in automatico sempre le stesse cose. Potrebbe cambiare il mondo, ma tanto per disemblare bisogna comunque solo rispettare i vincoli di bilancio. L'Italia ha un alto debito, faccia le riforme. Avrei piacere di sentire di Sebelum ogni tanto anche ragionare sul perché l'area euro, lui è presidente dell'Eurogruppo, è quella che cresce meno a livello mondiale, è quella che si è beccata la seconda recessione, è quella dove la deflazione sta dilagando a partire dai paesi del sud. Questo non importa, perché il ragioniere di Sebelum, al ragioniere di Sebelum interessano solo i vincoli di bilancio, mamma mia. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Dalla Russia arriva la notizia che, secondo la Banca Centrale Russa, che è presieduta da una donna, la governatrice si chiama Elvira Nabiulina, al momento, dicevo, la Banca Centrale Russa ritiene difficile o improbabile che la Russia cresca quest'anno più dell'1%, anzi la crescita dovrebbe essere sotto l'1%, il che è una revisione netta rispetto all'1,5-1,8% inizialmente stimato, ed è una crescita deludente per la Russia. Sotto l'1% è quasi stagnazione, chiaramente vale anche per l'Italia, ma in questo caso parliamo della Russia. Invece in America continua la crescita di posti di lavoro, il settore privato ha creato a marzo 191.000 posti di lavoro in più. Buona notizia sulla disoccupazione, invece ieri abbiamo commentato a lungo il dato italiano, nuovo record da sempre sui disoccupati, da quando li misuriamo, e anche gli occupati, siamo tornati indietro di 14 anni. Diversamente va in Spagna, dove la Spagna ha, dopo la Grecia, la disoccupazione più alta d'Europa, però sono calati di 16.000 gli iscritti alle liste di disoccupazione. I disoccupati sono scesi a quota, una quota enorme, 4.800.000. Disoccupazione in calo anche in Irlanda, dove si è scesi di pochissimo, però dall'11,9 all'11,8%, è il livello più basso degli ultimi 5 anni. Certo, se andiamo a vedere come stava messa l'Irlanda, quanto disoccupazione prima dello scoppio della crisi, era al 5%, quindi siamo ancora più del doppio rispetto al 2008, ma è un leggerissimo calo. Allora, in Germania invece il governo ha approvato il disegno di legge che introdurrà il salario minimo da 8,50 euro l'ora. Sarà in vigore dal 1 gennaio 2015. Molto contestato il provvedimento, perché vari economisti hanno detto che c'è il rischio che migliaia di posti di lavoro vadano persi. Però è il frutto dell'accordo tra la CDU di Angela Merkel e i socialdemocratici di Sigmar Gabriel. Dal salario minimo sono esclusi i disoccupati di lungo corso, quelli che non lavorano da più di un anno, nei primi 6 mesi di reimpiego. La norma invece varrà anche per i diciottenni e per i praticanti nel periodo di formazione. E poi Angela Merkel si recherà l'11 aprile ad Atene, lo ha confermato il portavoce del governo tedesco, per dare sostegno al premier Antonis Samaras in vista delle elezioni europee di maggio. Chissà se la visita della Merkel darà una mano a Samaras o invece sarà, diciamo, un boomerang. Io ricordo che la Merkel diede una mano a Sarkozy e poi si è visto come è andata a finire. No, dico, perché non è che la Germania sia proprio popolarissima in Grecia, forse era meglio, massimo rispetto, era meglio se stava a casa. Vabbè, intanto oggi ha partecipato di nuovo il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad Atene in un clima di grande ottimismo, non ho capito da parte di chi, forse della Troica. Prosegue la riunione dei ministri delle finanze dell'area euro, il primo passo importante per l'uscita della Grecia dalla crisi, che, insomma, stando a quello che ha verificato l'Eurogruppo e anche la Troika sta attuando il programma di risanamento e ha ricevuto la prima parte della tranche da 8,3 miliardi di euro, i primi 6,5, poi gli altri arriveranno entro luglio. Sulle procedure di infrazione, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il nostro ministro dell'economia, ha detto: attenzione, io non ho visto alcun asse Italia-Francia, ci sono molti paesi che devono aggiustare i conti, noi non siamo in procedura di infrazione, non siamo sottoposti alla procedura di infrazione, altri paesi sì, tra cui la Francia in realtà ha ottenuto dall'Europa la possibilità di sforare il deficit al 3%. Comunque, Padoan. Io non ho visto un asse Italia-Francia, ci sono molti paesi che devono aggiustare i loro conti, noi non siamo in procedura di deficit eccessivo, altri paesi sono in quella procedura e noi difenderemo i risultati acquisiti in termini di stabilità di bilancio e andremo avanti con riforme che accelerano la crescita e producono risultati sul fronte dell'occupazione. Allora, chi scrive, ma insomma, se non ci fossero stati i vincoli da ragionieri noi avremmo continuato a fare debito. Infatti noi non siamo contro i vincoli in senso stretto, però abbia pazienza. Un conto è fare il 3% di deficit perché non sappiamo mettere mano, cosa che dovremmo, alle spese per esempio per beni intermedi della pubblica amministrazione che valgono 160 miliardi di euro. Altra cosa è dire che gli investimenti, anche quelli piccoli dei comuni, sono bloccati dal patto di stabilità interno, dire che un investimento infrastrutturale importante, anche di infrastruttura digitale, sia spendere soldi. No, quello è un investimento per il futuro, non è spendere soldi. Sono due cose molto diverse. Questo si chiede all'Europa, non di mollare la presa sul debito e sul deficit, ma di iniziare a ragionare se non esistono forme di investimento che non sono spesa, non sono spreco, sono investimento per il futuro, per rendere più competitiva e più produttiva l'area euro e tutti i paesi dell'area euro. Allora si può ragionare su questo, o, per dirla con una battuta, costruire un ponte equivale alle spese per consulenza della pubblica amministrazione? Secondo me no. Comunque il ministro Padoan ha detto: non tocchiamo le pensioni, anche se i dettagli sono da discutere, e comunque gli 80 euro in busta paga arriveranno a tempo debito. Sul tema pensioni vorrei aprire il primo approfondimento, anche perché poi su questo è intervenuto anche il premier Matteo Renzi da Londra. Ossia, l'Istat oggi ha diffuso i dati, attenzione, sono relativi al 2012, su come è composta, diciamo, la nostra platea di pensionati, quante sono le pensioni cosiddette d'oro, quante sono le pensioni che io aggiungo quasi da fame, e via così. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, nel 2012 il 42,6% dei pensionati, quindi poco meno della metà, ha percepito un reddito da pensione inferiore ai 1000 euro al mese. Stiamo parlando di 7 milioni di persone, poco più di 7 milioni di persone, visto che in Italia i pensionati sono 16 milioni e 600 mila. I ricchi, i fortunati, quelli che in alcuni casi hanno versato, in altri casi andrebbe rivisto, perché sappiamo che per alcuni dipendenti pubblici, per alcune categorie, sono andati in pensione con il retributivo, anche guardando per esempio all'ultimo stipendio dell'ultimo anno, non gli ultimi 10 anni, ecco lì si potrebbe intervenire. A me dispiace, però è chiaro che a questo punto hai un paese che va che in parte è andato in pensione con il retributivo, non parliamo poi delle baby pensioni, e il resto ci va col contributivo, c'è una bella differenza tra andare con gli ultimi, calcolarla sugli ultimi stipendi o su quanto hai versato, abbiate pazienza. Comunque ci sono 210.000 italiani che ricevono una pensione superiore ai 5.000 euro al mese, e quindi siamo all'1,3% del totale. Quelli veramente d'oro, con più di 10.000 euro al mese, sono 11.683 pensionati. Anche qui, senza voler toccare nessuno, stiamo parlando dello 0,1%, però forse un gesto, un atto di solidarietà con il resto del paese si potrebbe anche avere, a maggior ragione se si scopre che molti di questi sono andati con retributivo. Partendo da chi prende anche i vitalizi, siamo d'accordo. La spesa delle pensioni è salita anche nel 2012 dell'1,8% a 270 miliardi, vuol dire il 17% del PIL, sono 253 euro in più all'anno. E poi il ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione Marianna Madia, in audizione alla Camera, ha detto un grande progetto di staffetta generazionale con un processo di riduzione non traumatica dei dirigenti e dei dipendenti vicini alla pensione per favorire l'ingresso dei giovani. Se non si fa non ci può essere rinnovamento dell'amministrazione ma solo agonia. La pubblica amministrazione non può permettersi e nemmeno serve il blocco del turnover, invece è necessario fare scelte consapevoli per operare un rinnovamento. E poi ha aggiunto che gli 80 euro che arriveranno in più in busta paga sono come un rinnovo contrattuale. Ho capito, ministro, però a questo punto ci deve dire, visto che Cottarelli aveva dato una stima intorno agli 85.000 esuberi, vorremmo capire, andate a prendere tutta la parte più alta e quindi dirigenti di prima, seconda fascia, quadri, vicini alla pensione, fate uno scivolo, un prepensionamento, e quanta è la parte di sostituzione? Immaginando che siano 85.000, cosa vuol dire che arrivano 85.000 ne ho assunti giovani, ne arrivano 40.000? Cioè, ministro, con il massimo rispetto, entriamo ogni tanto sui dettagli, anche se ce li avete, se no le frasi grande, staffetta generazionale, sono frasi che ci raccontiamo così. Nel frattempo c'è un dato molto interessante dell'OCSE, perché sappiamo che quando ci sono i test PISA, che sono quelli che vengono utilizzati a livello mondiale per capire quanto sono preparati i nostri ragazzi, i nostri studenti, noi non finiamo sempre bene, anzi con una grossa differenza tra nord, centro, centro-nord e sud nella formazione. Però c'è stato, e infatti vengono bastonati nei test PISA soprattutto gli studenti del mezzogiorno, c'è stato adesso un altro tipo di test che si chiama in inglese problem solving, cioè devi risolvere un problema. La capacità di risolvere problemi pratici, per esempio utilizzare i comandi dell'aria condizionata, individuare un itinerario su una mappa, acquistare biglietti ferroviari dal distributore automatico di una stazione conosciuta e via così. Allora, l'Italia è emersa come il paese che ha le maggiori capacità di problem solving nei suoi studenti rispetto alle capacità scolastiche. Allora, io so già la battuta qual è. Chiaro, quando devi vivere in questo paese è una tale giungla che se non sei un problem solver non arrivi neanche a scuola la mattina, tra l'autobus che è in ritardo, il parcheggio che non c'è, e se devi prendere il treno, se sei un pendolare pure lì c'è, non c'è, chi lo sa. È ovvio che, e poi c'è una capacità italiana di adattarsi. Attenzione che però questo non è un dettaglio, perché molte volte, no, noi sempre elogiamo gli studenti cinesi che vengono massacrati fin dalle elementari e diventano ipercompetitivi, però gli studenti cinesi e asiatici in generale un limite ce l'hanno, sono abituati a eseguire e a seguire uno schema. Se tu gli rompi, gli modifichi lo schema, te lo dicono tutti i manager che lavorano con l'Asia, sono molto più incapaci di noi di riadattare, riformulare, appunto, quello che si chiama problem solving, rimettere in discussione un tracciato e inventarsene un altro, in sostanza arrangiarsi. Lo dice anche l'OCSE, dice l'Italia è tra i paesi con le maggiori capacità di problem solving rispetto ai risultati relativi alle capacità scolastiche, merito, oltre che è un paese, questo lo aggiungo io, anche del programma di insegnamenti che spazia su più materie aprendo la mente, e quindi anche una cultura generale che in America adesso stanno cercando di riscoprire nel college, perché si rendono conto che poi uno sa tutto di fisica e non sa nulla del resto, faccio per fare un esempio, serve aprire la mente. C'è però una postilla nel rapporto dell'OCSE, dice, visto questa grande capacità che hanno gli studenti italiani, significa che avrebbero ancora maggiori capacità se avessero, diciamo, una struttura scolastica più forte e, aggiungo io, dei genitori più severi e meno contro gli insegnanti, più contro i figli che non studiano, significa appunto che avremo anche una capacità di risultare a livelli più alti nei test PISA. Volete sapere il nostro punteggio? 510 punti sopra la media OCSE, sopra i tedeschi, sopra gli americani, sopra i belgi, molto sopra gli spagnoli. E i ragazzi che hanno studiato nel nord del paese sono anche vicinissimi ai punteggi record assoluti di Cina e Taipei, 530 punti. Chiudiamo con una buona notizia, poi andiamo col meteo e poi sentiamo sia Renzi che Squinzi sulle prospettive delle manovre. La multinazionale degli elettrodomestici Whirlpool ha raggiunto l'accordo con i sindacati svedesi, chiuderà lo stabilimento in Svezia a Norrköping e trasferirà tutta la produzione nel polo di Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese. Ottima notizia, anche perché vuol dire un incremento produttivo di 500.000 di elettrodomestici l'anno e a regime di 2.300.000 elettrodomestici. Adesso il meteo e la pubblicità. Sì, stiamo usando nuove basi per il programma, vedo che ve ne siete accorti. Fra poco lanceremo anche il CD delle basi di Focus Economia, poco prima dell'estate. Però adesso andiamo sul meteo. La borsa ha chiuso con meno 1,1 per 100, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Together. Alle 17.33 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo delle dichiarazioni da un lato del Premier Renzi e dall'altro del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Partiamo da Renzi, ancora a Londra, ha visitato la City, dice c'è una grandissima domanda di Italia in questo paese, riferito a Londra, e questo penso che sia il messaggio di speranza che è arrivata. C'è tanta gente che ha voglia di investire e credere nell'Italia, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo. C'è una grandissima domanda di Italia in questo momento, tanta gente ha voglia di investire nel nostro paese, tanta gente ha voglia di credere nel futuro dell'Italia, e credo che questo sia il messaggio di speranza vero che sta arrivando non soltanto da Londra ma un po' da tutto il mondo. Quindi è molto importante che l'Italia si dimostri capace di attrarre questo flusso di denari, che non è un flusso di denari che serve a se stesso, ma un flusso di denari che serve a creare occupazione. Avete visto i dati della disoccupazione? Avete visto i dati della disoccupazione giovanile? Noi come politici abbiamo un dovere, che è quello di dare risposte alle ragazze e ai ragazzi più giovani che non hanno posto di lavoro, ma anche, lasciatemelo dire, ai cinquantenni di cui non parla mai nessuno e che quando vengono espulsi dal mondo del lavoro fanno più fatica a trovare posti di lavoro. Perché? Perché gli viene detto, beh, tu sei troppo vecchio per lavorare, troppo giovane per andare in pensione. Perché questo accada, c'è bisogno di gente che tira fuori i soldi e li investe in attività produttive in Italia. E poi Davide Serra. Allora, Davide Serra è un finanziere, è fondatore del Fondo Algebris, è stato ospite nostro il giorno in cui Renzi praticamente accettò l'incarico. È da sempre un amico di Renzi, gli sta facendo un lavoro, non vuole esporsi da dietro, insomma, da dietro nel senso di nel backstage chiaramente, ed è quello che portò Renzi a incontrare la comunità finanziaria milanese. Lo dico perché, con tutto il bene che vogliamo a Davide Serra, quando parla di Renzi è di parte, ma dichiaratamente di parte. Ha detto oggi in un tweet: il CEO, quindi i numeri uno inglesi, gli amministratori delegati inglesi, sono stati molto positivamente impressionati dalle riforme di Renzi, dalla velocità, dal coraggio, ma che sembra De Gregori su... aspetta, dalla velocità e dal coraggio. Qualcuno mi ha detto che Renzi è la miglior notizia che l'Europa ha avuto negli ultimi anni. Adesso, Serra. Cioè, la migliore notizia che l'Europa ha avuto negli ultimi anni, Renzi, mi sembra un pochino, per dirla nel suo linguaggio, too much. E poi dalle riforme di Renzi, le riforme per ora a tutti vogliamo vedere attuate, ma sono ancora sulla carta, non è ancora passata una. vediamo quando arriveranno i soldi. Per cui, comunque, attenzione all'elogio eccessivo, perché si passa in un secondo dall'elogio alla geografia. Agiografia. Allora, il presidente Confindustria Squinzi, invece, che nel documento in cui oggi Confindustria ha tracciato le 10 priorità degli industriali in vista delle prossime elezioni europee, il dossier Europa, il manifesto sull'Europa, ha detto occorre integrare rigore con crescita, serve un'agenda incisiva e concreta per il rilancio della competitività, e ha anche aggiunto se il governo andrà in Europa contro il dogma dell'austerità, non che ci voglia anche un controllo dei conti pubblici, ma che non sia l'unico dogma, noi daremo massimo appoggio al governo. Noi imprenditori evidentemente dobbiamo essere concreti, non sempre l'Europa, questa Europa ci è piaciuta, ma è una dimensione in cui noi crediamo, un mercato singolo, una comunanza di principi in cui crediamo che va difesa e va portata avanti. È per questo che noi abbiamo predisposto questo documento in maniera molto precisa. L'Europa deve piacerci, non pensiamo un'Europa che deve essere sicuramente più snella, più compatta, con un'industria forte e competitiva che sia capace di far sentire la sua voce, la sua leadership, il suo peso. Ecco, quindi con la nuova legislatura evidentemente noi dobbiamo puntare a un'Europa che non sia più un'Europa di solo esclusivo rigore, ma un'Europa che punti anche tantissimo verso la crescita. Questo documento è articolato su 10 priorità che entrano nel merito di tutti i temi che sono, per cui le imprese sono più sensibili. Parliamo di politiche energetiche, politiche climatiche, ambientali, ricerca e innovazione, che anche ricordando il Trattato di Lisbona devono essere al centro del rilancio dell'Europa. Il supporto alle piccole e medie imprese per promuoverne la competitività, ecco, quindi sono i temi a cui abbiamo già accennato e quindi che noi sosteniamo con forza e che presentiamo ora all'attenzione delle forze politiche italiane. Together. Allora, e poi l'indicazione di Squinzi sia sull'uscita dall'euro, lì c'era stato anche un rapporto del Centro Studi Confindustria sul danno alla nostra economia, e anche però la necessità di avere candidati alle europee, io dico presentabili, Squinzi ha detto in maniera più elegante, all'altezza del ruolo. Sì, avete ragione, era De Gregori, leva calcistica della classe 68, no, era il commento sul tweet di Davide Serra, insomma, i CEO inglesi sono stati molto positivamente impressionati dalle riforme di Renzi, dalla velocità e dal coraggio, giustamente alcuni di voi aggiungono anche dall'altruismo e dalla fantasia, perché era la frase nella canzone di De Gregori, piano piano con gli elogi. Invece andiamo alla dichiarazione di Squinzi di nuovo, perché Squinzi ha detto attenzione, l'uscita dall'euro provocherebbe un arretramento di 30-40 anni nei livelli di vita, con l'euro siamo tutti più forti. Tanto se dico che sono d'accordo dite che per forza devo essere, in realtà sono d'accordo da prima che lo dicesse Squinzi, lo sarò anche dopo e nel durante, fermo restando che l'euro a 1,40 è troppo forte e che il problema dell'area euro non è l'euro, non è il termometro, ma la febbre ce l'ha fatta venire questa gestione ragionieristica dell'euro. A chi mi scrive, sì però se poi il ponte costa 5 volte più del previsto, quello è un deficit negativo, è una spesa negativa. Sì certo, ma infatti facciamoglielo fare a loro, controllatelo loro, però basta che si inizi a ragionare che non tutto quello che uno Stato spende sono sprechi, alcuni sono investimenti, lo sa anche, lo sa qualunque imprenditore che tra investire in un macchinario o abbellire la stanza della segretaria, il primo è un investimento, il secondo no. Oddio, in alcuni casi, per alcuni anche il secondo, potrebbe essere un investimento, però in generale no. Comunque, squinzi sui candidati europei che devono essere all'altezza del loro ruolo. Mi auguro che l'Italia, e sono convinto che l'Italia possa e debba riprendere un ruolo di protagonista nello scacchiere europeo, e quindi da questo punto di vista ritengo che sia assolutamente fondamentale che le forze politiche italiane candidino alle prossime elezioni politiche, alle prossime elezioni europee, persone in grado veramente di rappresentarci ad altissimo livello in Europa, anche nell'ambito delle sfide che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi anni. Quindi ci auguriamo che ottiche di parcheggio, di contentini distribuiti alle forze politiche attraverso candidature europee non siano più la logica di queste prossime elezioni. Abbiamo bisogno di mandare nel Parlamento europeo persone capaci, che si impegnino, che diano una presenza costante, che gestiscano i dossier, che partecipino alla gestione dei dossier europei nel modo più opportuno, che è assolutamente necessario. Poi sulle parole di Squinzi e anche della Camusso. Squinzi ha risposto anche in qualche modo alle critiche del governatore Visco sulle imprese che secondo Visco devono innovare di più, però adesso vorrei fare la borsa. Meno 1% Milano oggi, Parigi invariata, Francoforte più 0,20, Londra più 0,20, l'America più 0,10%. Il 3,40 lo perde Mediobanca, il 2,50 il calo della Pop Milano ma anche della Fiat, il 2,30 quello di Intesa San Paolo, il 2,1 quello di Unicredit, Unipolsai, Buzzi Unicem e Ubi Banca. Bene invece Moncler più 2,26, Gitec più 2, Prismian più 1,70, Generali più 1,1 e ST Microelectronics più 0,90. Allora, come sempre la borsa con Radio Cori sulle 24 ore, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Dunque, mi sembrano grandi prese di beneficio sulle banche, vuol dire che vai a vendere dopo che i titoli sono saliti, oddio, Mediobanca forse meno, però partiamo da Moncler, come mai con il caldo che arriva, adesso la battuta è facile, ma il titolo sale così tanto? Sì, allora, come dicevi tu, il titolo è stato il migliore oggi sul FTSE MIB, cioè sul paniere principale di Piazza Affari. Qui sono arrivati i giudizi positivi degli analisti, secondo cui il titolo ha perso molto dalla data di pubblicazione delle stime preliminari sull'anno, lo scorso 24 febbraio. Da quella data le azioni hanno perso il 16%, e gli analisti spiegano che sono forse non vi è troppo riscontro sui timori degli investitori per un primo trimestre, che potrebbe essere appunto debole. Ricordiamo che le azioni trattano con un premio, quindi trattano con un valore più alto rispetto ai concorrenti europei di un 55%, che è un valore piuttosto alto, ma secondo gli operatori è giustificato dai conti e dalla profittabilità che mostra l'azienda. Per la fine di quest'anno sono attesi utili in rialzo del 18% e vendite del 18,8%, quindi comunque dei dati buoni anche per il 2014. E questo per quello che riguarda Moncler. Bene anche Gitec, che però era parecchie sedute che cedeva, più 2%. Sì, Gitec nel mese mese di marzo ha perso oltre l'8%, quindi oggi ha recuperato terreno. Alcuni operatori sottolineano per il titolo un prezzo a 26,50 euro, oggi ha chiuso a 22,37 euro e alcuni esperti sottolineano come aspetti positivi il taglio dei costi e le opportunità di business soprattutto in Grecia e in Turchia per la società. Ancora invece andiamo su quelli che hanno in parte realizzato in parte ceduto, penso a Fiat che bene si era mossa dopo le matricolazioni, anche se non erano positive in Italia erano buone per la Chrysler, meno 2,45%, Mediobanca meno 3,40%, Pop Milano meno 2,40%, insomma i bancari e Fiat. Sì, allora Fiat arriva da un periodo quindi di rialzo, oggi ci sono state delle prese di profitto, le vendite di auto in Italia sono salite del 2,8% a marzo, dato sotto la crescita del mercato che è salito del 5% circa, negli Stati Uniti le vendite sono invece salite del 13%, un dato decisamente sopra le attese degli esperti. Per quanto riguarda il comparto bancario, come dicevi tu, è stato vittima oggi dei realizzi, vediamo che ad esempio Mediobanca che ha perso il 3,4% arriva da un rally che in 6 sedute l'aveva portata a guadagnare oltre il 9%, il balzo maggiore nelle 6 scorse sedute è stato però quello del Banco Popolare che ha guadagnato oltre il 23,2% e oggi ha perso l'1,7%, ricordiamo che è in corso l'aumento di capitale che è partito lunedì scorso. Stessa cosa per gli altri titoli che hanno perso terreno dopo i rialzi giorni scorsi, vediamo Unicredit ad esempio ha perso oltre il 2%, aveva guadagnato oltre il 9%, Intesa San Paolo aveva guadagnato oltre il 12%, oggi ha perso il 2,37%. Adesso le informazioni sul traffico, poi gli altri titoli, Prismian, anche World Duty Free e i migliori e peggiori, 349-238-6666 per i vostri sms, la base, buonanotte, la pagina di Focus Economia su Facebook, ormai a forza di nuove basi sto saltando anch'io, e poi parleremo anche di Sorgenia, 349-238-6666, traffico. minuti. Allora Livia Zancanera, alcuni ascoltatori vogliono che tu partecipi al CD delle basi di Focus Economia che lanceremo prima dell'estate, va bene, glielo chiederemo anche ufficialmente. Invece per quello che riguarda Sorgenia, di cui parleremo tra un attimo, un ascoltatore scrive: visto che è Pasqua bisognerebbe parlare di Risorgenia, e va bene, oggi abbiamo buono spirito, siamo contenti. Allora, Prismian, World Duty Free e fuori dal listino principale le bonifiche ferraresi. Sì, allora Prismian ha guadagnato l'1,7%, oggi la notizia è che è arrivata una multa da quasi 105 milioni di euro dalla Commissione europea, la buona notizia è che Prismian si aspettava 200 milioni di euro, quindi diciamo meno di quelli che alla fine sono arrivati. Ricordiamo che Prismian è stata condannata a pagare con i suoi azionisti dell'epoca, quindi Pirelli e poi Goldman Sachs, sia Prismian sia Pirelli hanno detto che faranno ricorso. Per quanto riguarda World Duty Free, il titolo è stato positivo praticamente per tutta la giornata, poi ha perso invece lo 0,48%, questa mattina e quindi nel primo pomeriggio ha beneficiato delle indiscrezioni sulla possibile quotazione della concorrente Nuance, delle voci che secondo gli operatori potrebbero accendere speculazioni su potenziali aggregazioni all'interno del settore. Nel resto del listino, bonifiche ferraresi ha chiuso un indeciso rialzo e ha segnato un guadagno di quasi l'8% dopo le indiscrezioni pubblicate oggi su un'offerta che sarebbe pronta a rilevare, un'altra offerta che sarebbe pronta a rilevare la quota pari al 62% in mano alla Banca d'Italia, quindi il mercato scommette su un possibile rilancio. Passaggio in mano al rilancio. Allora, molto bene oggi anche Mondo TV più 15,70, vabbè, sono titoli molto sottili, Screen Service Broadcasting più 9,50, fronte opposto Warspace meno 16,60, L'Espresso meno 4,70, Mediobanca appunto meno 3,40%. Grazie Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso ci occupiamo di Sorgenia. Mi scrive una, penso, ascoltatrice perché si firma Luisa, che dice: ma quale sfigato comprerebbe il CD con le basi di Focus Economia per l'estate? Per carità, fate informazione, non musica. Allora, ci sono due modi per presentare il tema Sorgenia. Io posso iniziare così, posso dirle: adesso parliamo di Sorgenia, le banche stringono sulla nuova proposta per presentare a Sorgenia, travolta da debiti che non capiamo come abbia fatto a contrarre, un nuovo piano di rilancio, e forse anche fuori da quello che vorrebbe la famiglia De Benedetti. Oppure potrei fare così. Potrei dire che i banchieri hanno preso atto della disponibilità della CIR, quindi Famiglia De Benedetti, di aumentare a oltre i 100 milioni di euro l'impegno per salvare la Sorgenia, e forse si arriva a un accordo che, tra virgolette, salvi capra e cavoli. Non voglio tornare sul come le banche hanno concesso prestiti a una società che, come segnalava inizio marzo Il Sole 24 Ore, già nel 2010 aveva un debito che superava di 10 volte il margine operativo lordo. Sfido qualunque imprenditore normale, che non si chiami De Benedetti o altri nomi, ad andare in banca e dire: ho la mia impresa, ho un debito che è 10 volte superiore al MOL, datemi soldi. Chiamano tra la Neuro e la sicurezza. Ma non c'entra, perché appunto Sorgenia ha avuto un'altra valutazione: 1 miliardo 800 milioni di debiti a questo punto, di cui appunto il 50% è stato dato nel 2010, quando già era sommersa dai debiti. Ma di questo abbiamo già parlato. Fabio Pavesi, dove si sta muovendo la nuova trattativa? Beh, la nuova trattativa dura ormai da un mese, è stato veramente un braccio di ferro, perché le banche ovviamente hanno detto: qui sono 600 milioni di debito date da loro stessi, ovviamente in eccesso, dobbiamo riequilibrare la struttura finanziaria. Cosa vuol dire? Che ovviamente le banche dicono: io sono disposto a prendere questi debiti, convertirli in azioni, cioè diventare io azionista, ma tu devi mettere dei soldi, tu imprenditore. E si era arenata perché la famiglia De Benedetti, che ha il 52 di Sorgenia tramite CIR, ha detto: io più di 100 milioni non posso mettere. Le banche ne volevano almeno 150, trattativa durata un mese, adesso sembra di aver trovato questa sorta di compromesso. Ma qual è il tema? Che alla fine questa vicenda inizia oggi di fatto, perché le banche diventeranno azioniste comunque di controllo della società, cioè il controllo passerà alle banche. È successo con il risanamento di Zunino. Cosa accade? Che le banche non solo hanno dei crediti da recuperare, ma diventano anche azioniste, quindi a rischio di credito assumono il rischio di capitale, perché bisogna solo sperare che Sorgenia esca dalla crisi in cui è entrata. E però questa crisi non è un fatto congiunturale, rischia di durare altri anni. E dopo il GR24 vorrei capire appunto, perché insomma qui c'è un piano che contempla la conversione di 600 milioni di debiti in eccesso in azioni, come tu ricordavi. Ora io vorrei capire se gli azionisti delle varie banche, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, Unicredit, UbiBank, BPM, sono contenti di diventare azionisti di un gruppo energetico come Sorgenia, che possiede 4 impianti a ciclo combinato a Termoli, a Modugno, a Bertone Coturano, Lodigiano e ad Aprilia, e che però ha delle difficoltà. Il problema è che si è obbligato a diventare azionista nel momento in cui non si riesce a trovare un'altra via d'uscita. Ne parliamo dopo il GR24, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:07 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento su Sorgenia. Allora, ben venga se si risolve la crisi di un gruppo che ha anche dipendenti e chiaramente ha sostanzialmente debiti per 1.900.000.000 di euro. Il punto era, lo dico, al di là di come, ma non voglio tornare sulla polemica di come ha fatto Sorgenia a indebitarsi così tanto quando già era messa male nel 2010, ma su questo potremmo dire che, per parafrasare Cuccia, che i salotti non si contano ma si pesano. Ma andiamo avanti, perché l'accordo, Fabio Pavesi, contempla la conversione di tutti i 600 milioni di debito in eccesso in azioni, E di fatto il controllo di Sorgenia, che attualmente è della CIR di De Benedetti al 53%, se ho ben capito però, passerebbe alle 21 banche creditrici. C'è un altro socio di minoranza del gruppo, che è l'austriaca Verbund, che però che ha il 46% di Sorgenia, che ha detto che ha già comunque azzerato il valore, cioè per lei come asset non vale niente quel 46%. Le banche che hanno concesso a Sorgenia crediti per quasi 2 miliardi di euro. Poi non mi dite che le banche non concedono crediti, è vero, avete ragione, delle volte li concedono a chi vogliono loro. Allora, Monte dei Paschi, 603 milioni di euro di esposizione, Intesa San Paolo, 370 milioni di euro, Unicredit, 180 milioni di euro, UbiBanca, 180 milioni, BPM, 177 milioni, poi BNP Paribas, 100 milioni e la Cassa dei Risparmi di Genova, 41 milioni. Allora, qual è il problema, Fabio? Il problema è che le banche diventano azioniste di una società che ha prospettive di fare perdite ulteriori anche nei prossimi anni, perché Sorgenia ha perso circa 400 milioni l'anno scorso ed è 3-4 anni che ha il conto economico che sta peggiorando. Perché? Perché ci sono troppe centrali elettriche in Italia, la domanda elettrica si è abbassata, c'è sovraccapacità di offerta. Non è questo giochino lo smonti in un attimo, cioè prima di riassorbire la sovraccapacità occorreranno anni, quindi le banche entrano in un business, come dire, un po' agonico. La prospettiva quindi di rischiare di perdere ulteriori soldi c'è tutta, e questo la dice anche lunga su questo timore di De Benedetti di esporsi ulteriormente, perché non è vero che i soldi non c'erano in Sorgenia, no, ma in CIR la liquidità a settembre disponibile, cioè la cassa, era di 800 milioni. È vero che CIR dice io ho un bond che forse devo rimborsare da 300 milioni e scendiamo a 500, ma è vero che se c'era la volontà di rimanere azionisti imprenditoriali, la CIR i soldi per mettere in Sorgenia li aveva. A me viene il sospetto, e ovviamente solo un sospetto, che sapendo che quel business è bruciato, tra virgolette, meno soldi metto, meno ne perderò. Il problema è che la patata bollente passa a questo punto in mano alle banche, che non perdere tutti i crediti fa sopravvivere la società. Ecco, però, adesso, per essere corretti, diciamo, De Benedetti non ci vuole mettere più di tanti soldi, metterà più delle banche che devono almeno 150 sì, milioni. Sì, 150. Lui ha proposti 100, è andato avanti per un mese a dire 100 è la nostra offerta massima. Adesso si arriverà a un compromesso. Ok, però le banche avevano, dopo aver fatto, aver sbagliato, mettiamo così, sì, per essere buoni, aver sbagliato a valutare i crediti che venivano concessi, forse bisognerebbe mettere la stessa attenzione esasperata che si mette con i piccoli imprenditori, con gli artigiani, con le imprese, però... adesso le banche, ora come ora, avevano altre possibilità? No, purtroppo no, le banche sono in un vicolo cieco, perché ovviamente se hai dato tanti, cioè c'è quel vecchio detto, se io ho 100 euro di credito con una banca il problema è mio, se ho un miliardo il problema diritto è la banca, perché se io fallisco fallisce anche la banca, e ovviamente Sorgenia non può fallire, perché se fallisce quel miliardo e 8 di debiti spariscono. E quindi, voglio dire, le banche rischiano di recuperare tutti quei soldi lì. Il problema vero è che se la società continuerà ad andare male, quel miliardo e 8 non è che entrando nel capitale le banche lo recuperano, rimangono sospesi per anni. O se la compra qualcuno dell'estero. Esatto, le banche dovrebbero trovare un socio industriale che affianchi De Benedetti. Lì si tratta di capire se all'estero c'è qualcuno voglioso di investire in Sorgenia. Non dimentichiamoci che sotto Sorgenia c'è anche Tirreno Power. Esatto. Cioè, la famiglia, la CIR ha una quota di minoranza in Tirreno Power, però sappiate che i debiti in Tirreno Power sono circa di 700 milioni, per cui la CIR ha una quota a parte di altri 700 milioni di debiti dati a Tirreno Power, che oggi è sequestrata dalla magistratura. Voglio dire, la vicenda è molto intricata. A me colpisce molto che una banca come MPS su quel miliardo e 8 abbia dato da sola 600 milioni. Cioè lì qualcosa non torna, perché se tu sei una banca e sei la quarta banca italiana o la terza e mi dai un terzo dei debiti, dei crediti, vuol dire che tu forse hai esagerato e non hai valutato il business, hai valutato la persona che ti chiedeva i soldi. Era presidente Mussari all'epoca del finanziamento. Tant'è che MPS era anche azionista con l'1,1 del capitale. Adesso so già che arriveranno decine di messaggi sul ruolo anche politico di De Benedetti, sul chi fatto sa, che però MPS... il PD fosse vicino a me, di questo non parliamo, nel senso che non ho elementi, no, quello però... che ho elementi per dire è che prestare 1,8 miliardi in tutto il suo genere si è rivelato un errore clamoroso, che già nel 2010 c'era un debito che superava di 10 volte il margine operativo lordo, che non si spiega con un criterio di sana e prudente gestione che le banche spesso rivendicano, un'esposizione del genere, anche perché non rispecchia, come tu notavi, le proporzioni, cioè Intesa San Paolo, Unicredit, che è la prima banca, gareggia con Intesa italiana, presta 180 milioni, Monte dei Paschi, che è la terza barra quarta, ne presta 600 milioni. Sì. Qualcosa non torna. Non torna, e non è compito delle banche, hanno ragione gli ascoltatori, gestire Sorgenia, quindi il problema è poi anche trovare i manager e il know-how, come dicono quelli che hanno studiato, per far uscire da queste secche Sorgenia. A me quello che interessa sono in primo luogo i dipendenti di Sorgenia e di Tirreno Power, e in secondo luogo anche gli azionisti di queste banche, e in terzo luogo anche tutti gli imprenditori che avrebbero potuto ricevere 1,8 miliardi e non l'hanno ricevuto. Se proprio vogliamo metterla giù così, poi tanto l'ABI mi dirà che io ormai sono contro le banche, va bene così. Grazie a Fabio Pavesi. E invece andiamo su una buona notizia, in parte, che già annunciavo, e mi riferisco ai dati 2013 del settore mobilio arredo, una delle quattro gambe del Made in Italy, perché oggi li ha presentati il Salone Internazionale del Mobile in vista della 53esima edizione, che si terrà dall'8 aprile fino al 13 aprile alla Fiera di Milano Ropero. Dicevamo all'inizio del programma, è un settore che ha visto scendere il fatturato del 2,5% l'anno scorso a 17 miliardi e 600 milioni di euro, grazie all'export, a dimostrazione che le imprese italiane, quando sono sui mercati internazionali, sanno starci, aumentano i fatturati, più 2,5%. Pensate che il mobilio arredo, praticamente su 17 miliardi e mezzo di fatturato, 10 miliardi e 7 li ha fatti tutti all'estero, anche perché la domanda interna, i consumi italiani sono crollati del 7%, però non basta esportare se poi non hai più il mercato interno. Comunque, e di questo ha parlato il presidente di Federlegno Arredo, Roberto Snaidero, con la nostra Alessandra Tedesco. Noi come strategia di federazione è da anni che operiamo sull'export, tenendo conto di quelle che sono le condizioni del mercato interno. I risultati si vedono, anche il 2013 ha avuto una crescita del 2,5%, ritornando a quelli che erano, diciamo, i parametri già del 2008, quindi siamo a 11 miliardi di esportazione. Noi rappresentiamo l'export verso la Russia, siamo oltre un miliardo di dollari, e le esportazioni dall'Italia verso sono 10 miliardi e 6, 10% delle esportazioni vengono dal nostro settore. Il mercato interno purtroppo abbiamo risentito della caduta dei consumi. Il bonus mobili, mi dicono che anche i primi mesi di quest'anno c'è una crescita del 5% del fatturato dovuto al bonus mobili, quindi è molto positivo. Se potessi mandare un messaggio al nostro governo di tener conto di queste considerazioni, i nostri sono dati reali, non sono dati empirici, dati reali fatti proprio sul fatturato delle aziende, noi vorremmo, è già stato spostato fino al 31/12/2014, ma con delle limitazioni che ogni volta cambia qualcosa, gradiremmo avere una tranquillità che il bonus mobili possa essere fatto come nella prima edizione, quindi fino al 50% di 10.000 euro che è possibile applicare per la ristrutturazione delle case, perché così diamo un segnale molto chiaro. Ma vorremmo qualcosa di più, perché noi, il nostro è un settore, il settore legno arredo, con 300-310.000 occupati, e sono tutte aziende, le aziende sono familiari, quindi radicate sul territorio Italia, e danno tutti il loro contributo per il nostro paese. Poco abbiamo avuto dai governi e dallo Stato in tutti questi anni, vorremmo che fossimo riconosciuti per quanto stiamo dando. Abbiamo una bilancia dei pagamenti positiva per 7 miliardi di euro, quindi questo vuol dire che rappresentiamo qualche cosa. Non siamo le multinazionali che vengono, prendono e poi se ne vanno, noi, le nostre famiglie vivono qua. Il bonus mobili è un provvedimento momentaneo, volete che diventi strutturale? Insomma, che cosa chiedete al governo? Fermo restando quelle che sono richieste dal presidente Squinzi in macroeconomia, per quanto riguarda specificamente il nostro settore, qualora potessimo avere le stesse condizioni che hanno i nostri tra virgolette, competitor nei Francia, Spagna, Portogallo, che hanno l'IVA agevolata sull'acquisto della prima casa, aggiungere assieme alla parte immobiliare anche la parte arredamento assoggettata allo stesso aliquota IVA. Quindi è comunque dall'8 al 13 aprile alla Fiera di Milano Salone del Mobile, invece da domenica fino a martedì, per quello che riguarda questo programma, saremo in diretta lunedì e martedì soprattutto dal Vini Italy. A chi ci chiedeva da dove trasmetteremo, ripeto, padiglione 12, Regione Abruzzo. Adesso il traffico e poi chiudiamo con la disoccupazione, le indicazioni anche oggi arrivate dall'Europa, del mitico di Saint-Blême, e però anche il modo in cui l'Europa calcola, fa alcuni calcoli sull'Italia, che così un po' arbitrari sono. Allora, sulla disoccupazione, oggi il presidente Confindustria Squinzi dice serve una crescita di almeno il 2%. Possiamo ascoltare questo passaggio perché? Perché voglio parlare di come l'Europa calcola la nostra disoccupazione di equilibrio. Sembra un tema tecnico, ma la dice lunga su come, insomma, poi anche questi ragionieri europei, non ce l'ho con i ragionieri, ce l'ho con l'atteggiamento da ragionieri di chi non dovrebbe esserlo. Poi sono arbitrari pure loro. Comunque, Squinzi. L'industria ritiene che si debba ritrovare una crescita di almeno il 2% per poter veramente incidere in maniera precisa su una disoccupazione. Non sarà la crescita minimale di trascinamento che viene anche proiettata oggi quella che farà ritornare, farà decrescere il tasso di disoccupazione. Bisogna mettere mano anche a tutta una serie di riforme e radicali. Allora, è innegabile che con lo 0,6 non si creino occupati e infatti la disoccupazione prevista è in aumento anche quest'anno, però professor Piga, buonasera. Come sta? Buonasera, ben trovato. Grazie, bene. Professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Tor Vergata. Allora, citiamo una cosa che può essere tecnica. L'Europa fissa un tasso di disoccupazione di equilibrio per l'Italia. Cos'è? È quella disoccupazione che è compatibile con i prezzi stabili. Ha un livello elevatissimo, al 10,4%. Quindi vuol dire che, secondo l'Europa, la disoccupazione che abbiamo in questo momento quasi è strutturale, non ciclica. E vabbè, e quindi dice Bruxelles, non dovete intervenire a sostegno dell'economia perché tanto eventuali politiche espansive di maggiori soldi non servirebbero a nulla, aumenterebbero solo il deficit, vi beccereste comunque questa disoccupazione. Perché lei dice che in realtà i criteri sono piuttosto arbitrari? Ha riassunto benissimo tutto lei, devo dire che tra lei è talmente tanto complicato da spiegare che meglio di come l'ha fatto lei non si può. Sono arbitrari semplicemente perché noi non sappiamo quanta di questo aumento di disoccupazione, di questa crisi così straordinaria, è dovuto a aspetti ciclici o a aspetti strutturali. Una crisi di questo tipo l'abbiamo avuta 80-90 anni fa, quindi non abbiamo esperienze per guardare i dati passati e ottenere evidenze attuali, tant'è che l'unica cosa rilevante che sono riuscito a ottenere è la frase di Ben Bernanke, il governatore della Fed, quando era governatore della Fed americana, che veniva criticato perché diceva io continuerò a pompare moneta dentro l'economia fino a quando il tasso di disoccupazione non è sceso sotto 6,5. Sì, 5, l'ha detto anche la Yellen. Loro considerano strutturale 6,5 e dicendo una crisi così grave, non mi fate ridere che se io pompo moneta mi parte l'inflazione, perché una crisi così non c'è mai capitata, le aspettative sono così pessimistiche che altro che ripresa dei prezzi. Ed è paradossale che noi continuiamo a parlare di timori inflazionistici, di politiche espansive che fanno ripartire i prezzi, quando la Banca Centrale Europea evidentemente sta fallendo nella gestione del suo mandato, quando ha da gestire un tasso di inflazione che ormai è pericolosamente vicino alla deflazione, non al 2%. Sì, se n'è accorta anche Christine Lagarde oggi, la direttrice del Fondo Monetario, che dice attenzione, c'è un rischio fortissimo di bassa inflazione che potrebbe soffocare la crescita dell'occupazione. La Banca Centrale Europea deve agire. Tra l'altro, per noi questa è una brutta notizia, perché senza inflazione il nostro debito ci costa di più, cioè 1000 euro di debito, se tu hai un'inflazione al 3% dopo un anno sono il 3% in meno in valore reale, ma se l'inflazione non c'è a zero, i 1000 euro di debito te li tieni uguali dopo un anno. Questo rischia, lo dico, di vanificare il vantaggio, o in parte vanificare il vantaggio che abbiamo pagando poco come interessi sul debito. C'è un po' di inflazione, i paesi che hanno debito fa bene, perché chiaramente immaginiamo un'inflazione al 10%, che sarebbe fuori da ogni logica, però vorrebbe dire che il nostro debito fra un anno vale 900 euro, non più 1000 euro in termini reali. Lo dico perché su questo poi il governo Renzi sta facendo i calcoli sul beneficio dello spread a 170, deve fare anche i calcoli sull'effetto negativo di un debito che non viene eroso dall'inflazione. Dottor Baresone, posso aggiungere che ci sono altri due fattori per cui ci dobbiamo preoccupare, oltre a quello giustamente sottolineato da lei, della deflazione. Uno è che la deflazione porta la gente, siccome i prezzi scendono, sì, certo, e continua a scendere il tempo, la gente pospone, rinvia i suoi piani di consumo, e di tutto abbiamo bisogno in questo momento, meno che di rinviare al futuro i piani di consumo per l'effetto sulla domanda aggregata. L'altra cosa è che sappiamo benissimo, da 100 anni di studi sui comportamenti dei lavoratori, che i lavoratori trovano umiliante accettare delle decurtazioni dei loro salari in busta paga. Se lei si trova con i lavoratori che si oppongono a diminuzione dei salari in un ambiente in cui i prezzi scendono, i salari reali, cioè il costo vero per l'impresa, sale, e questo diventa benzina sul fuoco della disoccupazione. Certo. Quindi la deflazione per noi sarebbe veramente la miccia. No, sarebbe la cosa peggiore. Ecco, cosa risponderebbe lei, professor Piga, visto che appunto la Commissione Europea usa in maniera arbitraria quella che ritiene la disoccupazione strutturale? Cosa risponde a uno come il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che anche oggi ha detto no, non bisogna rinviare rispetto ai vincoli di bilancio, l'Italia ha alto debito, faccia le riforme? Allora, io gli rispondo due cose, che è proprio i vincoli di bilancio vengono calcolati proprio tenendo conto del ciclo economico. Se la Commissione Europea e alcuni tecnici decidono che non c'è ciclo ma è soltanto struttura, ovviamente il deficit che noi dobbiamo raggiungere è molto più basso per essere coerente con un ambiente stabile. Se invece facciamo una battaglia seria su questi numeretti scelti da due o tre tecnici dell'Europa e diciamo no, guarda, qui c'è un problema ciclico, allora il famoso deficit corretto per il ciclo che dobbiamo raggiungere richiede molta meno austerità. Quindi la battaglia che Renzi e Padoan devono fare adesso è correggere quei numeretti, ricordando comunque, altro fattore negoziale importantissimo, che dal 2016 in poi ci sono solo due paesi, si chiamano Portogallo e Italia, che riusciranno ad abbattere le loro spese più gravi per l'Europa, che sono le spese per l'anzianità. Il che significa che noi di fatto nel 2016-2017 avremo un livello strutturale rispetto agli altri paesi di spesa pubblica molto più basso. Il piccolo problema è che se non ci concedono oggi il credito per quelle politiche che facciamo nel 2016-2017, rischiamo di trovarci nel 2016 troppo tardi senza euro e senza Europa. Quindi Renzi ne ha tante di elementi sociali. No, ma era importante anche introdurre un concetto che mi rendo conto essere un po' tecnico, però che è quello che si definisce a livello europeo come strutturale o come dovuto al ciclo economico. È diverso, perché un conto è dire che tu stai spendendo troppo e i conti fuori controllo perché sei sbagliato come paese. Altra cosa è inserire, e i trattati lo prevedono, anche quello che è il contesto esterno, perché nel momento in cui crolla il PIL esterno tu devi poterlo inserire questo. E avere una disoccupazione strutturale fissata non al 10,5% ma all'8%, lo dico a tutti, permetterebbe a noi di passare da un deficit da meno 0,9 a più 0,3 e liberare risorse, adesso la faccio breve, pari allo 0,8% di PIL, ossia 13 miliardi di euro in più. Padoan e Renzi, andate a Bruxelles a spiegare che siccome sono arbitrari questi livelli, voi avete, i ragionieri belgi e tedeschi hanno un'idea e noi ne abbiamo un'altra. Grazie come sempre per la chiarezza al professor Gustavo Piga. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo con un'altra puntata di Focus Economia domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.